Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io penso che certe cose un rappresentante delle istituzioni non deve pensarle, ma nemmeno dirle. E credo che la cosa migliore sia che chieda scusa alla Bindi e che eviti di continuare a imitare Crozza, così non pensi di costruire consenso e simpatia, ma solamente una rappresentazione di irresponsabilità e arroganza. Questo è il commento, la raccomandazione, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, del Presidente del Senato Grasso a Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, per le frasi che ha detto ieri sera Matrix contro la Presidente dell'Antimafia Rosy Bindi. Ha detto, a proposito, sapete, nel 2015, la vigilia delle elezioni regionali, lei lo aveva incluso nella lista degli impresentabili e lui ieri a Matrix ha detto: ah, quella fu una cosa infame, da ucciderla. E quindi Grasso dice: la smetta di fare quasi l'imitazione di se stesso, che già la fa Crozza. Renzi poi è intervenuto poco fa, un'ora fa, al TG1 dicendo: si tratta di frasi inaccettabili. Questo, diciamo, è uno degli argomenti principali della giornata, questa bufera su De Luca, ma poi ce ne saranno molti altri che, come sempre, vi racconterò con la voce che naturalmente mi resta in questi giorni. Ci occuperemo anche dei guai di un altro politico, ma naturalmente è una storia completamente diversa, quella dell'ex sottosegretario all'economia del governo Berlusconi Cosentino, che è stato condannato nel pomeriggio a 9 anni di carcere per associazione camorristica. E poi ci collegheremo ancora anche questa sera con gli Stati Uniti, perché da lì, in questa fase di transizione, arrivano sempre delle piccole grandi novità. Insomma, molti argomenti. Come sempre, voi potete interagire qui nella trasmissione con la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure con il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Ma prima, come sempre, il racconto della giornata. Bufera su De Luca per le frasi su Rosy Bindi: io impresentabile, fu infame, da ucciderla. Il Presidente del Consiglio Renzi le definisce parole inaccettabili. Camorra, l'ex sottosegretario del PDL Nicola Cosentino, condannato a 9 anni per concorso esterno. Obama in Germania da Merkel: lei ha grandi valori, dice il presidente americano, e la cancelliera tedesca assicura: farò di tutto per collaborare con Trump. Intanto la presidente della Banca Centrale Americana sfida Trump e dice: rimango alla guida della Fed. Accordo sul bilancio europeo, ma per la prima volta l'Italia si astiene. Renzi avverte: siamo pronti anche al veto, ma non per egoismo. Immigrazione: Medici Senza Frontiere denuncia un nuovo naufragio al largo della Libia, dove risultano dispersi un centinaio di migranti, salvati in 27, 7 i cadaveri recuperati, ma sul gommone erano in 130. Terremoto: ancora crolli a Norcia, mentre il capo della Protezione Civile Curcio annuncia a Natale i primi container. E poi qui Effetto Notte sentiremo il sindaco di Norcia. E poi libertà di stampa: secondo uno studio europeo, l'Italia ha il record delle pressioni e delle minacce sui media. Partiamo quindi dal caso De Luca, scoppiato dopo, appunto, le sue frasi su Rosy Bindi ieri sera nella trasmissione Matrix. Rispetto alla Bindi, con lei nessun problema, si difende De Luca, che minaccia querele per il video mandato in onda da Matrix. Le parole shock del governatore della Campania tuttavia restano e rimandano alla polemica con la presidente antimafia alla vigilia delle elezioni regionali del 2015, quando De Luca fu inserito nella lista dei candidati impresentabili. È stata una cosa infame che ha fatto questa. Quella degli impresentabili? Una cosa infame, da ucciderlo. Ci abbiamo rimesso un 1,5% di atti di delinquenza politica. Critiche a De Luca dalle opposizioni: da lui un atteggiamento camorristico, dicono i 5 Stelle. A Bindi attacchi senza ritegno, commentano Forza Italia e Sinistra Italiana. De Luca si dia una calmata e si scusi, chiede il Partito Democratico. Parole inaccettabili, commenta Boldrini. De Luca smetta di imitare Crozza, dice il presidente del Senato Grasso. Grazie a tutte e a tutti per la vostra solidarietà. Mi ha fatto bene il tweet infine della Bindi. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sentiamo appunto che cosa ha detto poco fa al TG1 il Presidente del Consiglio Renzi. Frasi totalmente inaccettabili, solidarietà piena, Rosy Bindi. Vedo adesso una notizia che vi do prima delle altre, che un'agenzia di adesso, di pochi istanti fa: vigili del fuoco e forze dell'ordine stanno intervenendo in via Villa Magna, alla periferia di Firenze, per il crollo di un immobile causato forse da un'esplosione. Si temono persone sotto le macerie. Poi vediamo man mano se ci sono degli altri dettagli e degli aggiornamenti. Intanto continuiamo con le altre notizie, restiamo sulle vicende appunto che riguardano politici, ma vi dicevo una storia completamente diversa. L'ex sottosegretario del PDL Nicola Cosentino è stato condannato a 9 anni di carcere all'interdizione perpetua dai pubblici uffici per concorso esterno in associazione camorristica. Poi tra poco qui effetto notte ne torneremo a parlare, parleremo di questa notizia anche per ricostruire questa lunga vicenda. E poi la visita di Obama in Germania nel suo tour di fine mandato per salutare l'Europa. Grande sintonia emersa tra in questo vertice tra Obama e la cancelliera tedesca Merkel nel loro ultimo incontro ufficiale. Un clima di collaborazione. Hanno parlato del fatto che non c'è nessuna intenzione di tornare indietro sulla globalizzazione. Rassicurazioni sulla futura collaborazione con l'amministrazione Trump, dato che lo sguardo è inevitabilmente rivolto al futuro, alla nuova amministrazione americana e ai rapporti tra i due paesi. Merkel gode di grande credibilità ed è pronta a lottare per i suoi valori, ha detto Obama nell'intervista alla rete pubblica Hard e allo Spiegel. I tedeschi dovrebbero stimarla, ha aggiunto Obama, e io la stimo come partner. Nei prossimi giorni è atteso l'annuncio ufficiale della cancelliera sulla sua candidatura per un quarto mandato. Nel frattempo, negli Stati Uniti, il direttore dell'intelligence americana dei servizi segreti James Clapper ha dato le dimissioni. Si tratta delle prime dimissioni di un alto dirigente dell'amministrazione Obama dopo l'elezione di Donald Trump. Hillary Clinton poi è ricomparsa nel suo primo incontro pubblico dopo la sconfitta alle presidenziali, si è detta delusa del voto ma ha anche sottolineato non bisogna arrendersi mai, mentre la presidente della Banca Centrale Americana Janet Yellen annuncia che un aumento dei tassi di interesse potrebbe essere appropriato relativamente presto e lancia la sfida a Trump dicendo che intende restare a capo della Fed, appunto della Banca Centrale Americana, sino alla fine del suo mandato, e anche su questo avremo modo poi di tornare qui a effetto notte. Siamo al bilancio europeo, l'Italia che oggi si è astenuta sul bilancio europeo del 2017 è pronta a porre il veto, in Italia avanza intanto l'iter della legge di stabilità. L'Italia è pronta a mettere il veto sul bilancio europeo, non per egoismo, dice il Presidente del Consiglio, serve però più attenzione su crescita e migranti. Matteo Renzi torna così a pungolare l'Europa e lancia un avvertimento dopo l'astensione, la prima per il nostro Paese, sull'accordo fra 28 Paesi per il bilancio UE 2017. Il budget per il prossimo anno prevede tetti di spesa fissati a oltre 157 miliardi di euro in impegni e più di 134 miliardi in pagamenti. Un invito a cambiare linea arriva anche dal Ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan. Io continuo a pensare che l'Europa sia un'opportunità grandissima, soprattutto adesso che c'è bisogno di certezza. Ma questo sarà vero solo se l'Europa si rende conto che deve gestire il cambiamento. La manovra intanto prosegue il suo iter parlamentare. Maggioranza e governo stanno studiando la possibilità di mettere un tetto a IMU e TASI per i proprietari di case, se per gli affitti si sceglie il canone concordato con gli inquilini. Medici, sanitari e veterinari della sanità pubblica inoltre hanno proclamato lo sciopero per il 28 novembre. Chiedono certezze sulle risorse per assunzioni e contratto. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La politica appunto a Roma. Domani saranno diffusi gli ultimi sondaggi sul referendum costituzionale del 4 dicembre. Se perdo, niente governicchi. A poco più di 2 settimane dal referendum, Matteo Renzi ribadisce di non essere disponibile a fare governi tecnici se dovesse vincere il no. O si cambia o si scelga qualcun altro, dice il Premier, che invita gli italiani a non farsi fregare dai politici che vogliono restare aggrappati alla loro poltrona. Nessuno ha voglia di fare un governo di scopo per fare la legge elettorale, è la replica che arriva da Forza Italia, che con Brunetta ribadisce il suo no alla riforma costituzionale. Il 4 di dicembre vinceranno. Noi no, lo dicono tutti i sondaggi univoci, andate a votare per il no e che finalmente gli italiani possono far sentire la loro voce e mandare a casa un premier, un leader mai eletto dal popolo, che è diventato presidente del Consiglio solo con una congiura di palazzo. Renzi resterà leader ancora soltanto per 15 giorni, prevede anche Matteo Salvini, che però mette in guardia Forza Italia, se vorrà fare da stampella al governo, noi tireremo dritto, avverte il segretario leghista Andrea Viali, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di sondaggi, un'indagine dell'Istituto di Ricerca SVG e di Scuola.net, che ha coinvolto 1.755 utenti tra i 15 e i 25 anni, ha l'obiettivo di capire quale sia il loro rapporto col mondo politico. Le caratteristiche che dovrebbero avere i leader e i partiti politici ideali per i giovani italiani sono capacità di mantenere gli impegni, onestà, solidi principi e concretezza. E poi ci sarebbero anche la capacità di ascoltare, che ottiene il 39% di preferenza, e l'essere vicino alla gente, scelto dal 36%. Sono spunti che un buon politico quindi dovrebbe tenere bene in mente nel corso della sua carriera. E secondo voi quali sono le qualità necessarie? Comunque i dati appena citati non sembrano influenzati dal livello di conoscenza dei principali leader, visto che più o meno tutti sono noti allo stesso modo. Renzi, Grillo, Berlusconi e Salvini sono noti alla quasi totalità, mentre il pentastellato Di Maio sfugge a poco meno della metà. Tuttavia, in questo sondaggio è proprio lui che registra il maggior tasso di fiducia, 35%, seguito da Matteo Renzi 28%, Beppe Grillo 25% e Matteo Salvini 19%. Parliamo di terremoto, ci sono ancora stati crolli a Norcia, mentre il capo della protezione civile Curcio annuncia a Natale ci saranno i primi container. Poi ne riparleremo per fare soprattutto il punto della situazione con il sindaco di Norcia, qui a Effetto Notte più tardi. Migranti con un altro naufragio al largo delle coste libiche, un centinaio i dispersi. La storia si ripete, quella di un gommone semiaffondato a 30-40 miglia al largo delle coste libiche, soccorso da una nave britannica, ci spiega Loris De Filippi, presidente di Medici Senza Frontiere Italia. L'imbarcazione militare Enterprise ha contattato Medici Senza Frontiere, quindi la Bourbon Argos, per trasferire a bordo 27 persone e purtroppo 6 corpi. I 27 superstiti, tutti africani subsahariani, hanno raccontato agli operatori che a bordo del gommone c'erano circa 130 persone. Tra i 90 e i 100, dunque i dispersi, le ricerche continuano, ma le possibilità di recuperarli ancora in vita sono poche, viste le condizioni pessime del mare. Nelle ore successive, intanto, un altro intervento di soccorso, un gommone con a bordo 120 migranti. Da gennaio alla fine di ottobre, 4.900 persone sono morte nel tentativo di raggiungere l'Europa, 3.600 nelle acque del Mediterraneo. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'estero adesso, Siria, ed almeno 25 persone uccise il bilancio dei raid aerei governativi siriani sui quartieri orientali di Aleppo, assediati dalle forze lealiste e controllati da insorti antiregime, lo riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria. E queste riprese delle incursioni aeree delle forze russe e siriane potrebbero generare una catastrofe umanitaria ad Aleppo Est. Questo è l'allarme lanciato oggi da Oxfam, da Syrian American Medical Society e da Big Heart Foundation. Il quadro umanitario si fa sempre più drammatico, con oltre 250.000 persone intrappolate nella città. E poi una notizia che viene dal Mozambico, oltre 40 persone, ma secondo alcune fonti potrebbero essere quasi il doppio, sono morte, altre 110 sono rimaste ferite in Mozambico nell'esplosione accidentale di un'autocisterna che si era rovesciata, dalla quale la gente stava cercando di prelevare carburante. Lo scrivono vari media internazionali citando il governo locale, quindi potrebbero esserci decine di morti e oltre 100 feriti. Adesso in Italia parliamo di sanità, è un quadro scioccante, quello tracciato dell'Istituto Superiore di Sanità sull'aspettativa di vita in Campania e in Sicilia. Una speranza di vita alla nascita in Campania e Sicilia di 4 anni inferiore rispetto a Trento e alle Marche. Ma mentre i fattori di rischio per la nostra salute restano distribuiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, la disponibilità e l'accesso ai servizi sanitari penalizzano i cittadini del sud e delle regioni centrali. L'allarme è stato lanciato dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi, e si basa sui dati dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Regioni Italiane. Il livello dell'aspettativa di vita al sud è progressivamente diminuito, con Campania e Sicilia su valori oggi uguali rispettivamente a quelli di Bulgaria e Romania. Così Ricciardi al microfono di Katia Caramelli. L'aspettativa di vita, che è cresciuta dal secondo dopoguerra in poi, a un certo punto ha smesso di crescere, anzi è diminuita. E questo tendenzialmente può far portare da una parte le regioni del nord, diciamo, a avere delle performance simili a quelle delle regioni del nord Europa, invece le regioni del sud ad avere delle performance simili a quelle dell'est Europa. Secondo Ricciardi, questi sono i frutti amari del federalismo sanitario spinto e non solidale di questi anni. Annalita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E la cronaca ci porta a parlare di ladri di cioccolato. È ingente il bottino del furto messo a segno nella notte alla Streglio, storica fabbrica di cioccolato della provincia di Torino. I malviventi hanno forzato il cancello d'ingresso della fabbrica. Una volta all'interno, forse con un furgone, hanno portato via numerose confezioni di cioccolatini prodotti per le vendite natalizie. Sul furto indagano ora i carabinieri. Il danno non è ancora stato quantificato con precisione, ma secondo le prime stime si aggirerebbe intorno ai 100.000 euro. Qualcuno potrebbe pensare a ladri particolarmente golosi, ma evidentemente qua il bottino è quello poi della rivendita di questi cioccolatini. Libertà di stampa, è l'Italia tra tutti i paesi europei quello che nel 2016 ha registrato il numero più alto di minacce e pressioni contro i giornalisti e altri operatori dei media. Il dato emerge da uno studio dell'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali diffuso oggi in occasione di un incontro sul tema ospitato dalla Commissione alla presenza del vicepresidente Timmermans. E poi per chiudere lo spettacolo... La pop star Ricky Martin sposerà il compagno Juan Josef, artista siriano conosciuto da meno di un anno. La notizia è stata data dallo stesso cantante, 44 anni, durante un'intervista all'Ellen DeGeneres Show. Ebbene, buon matrimonio. Intanto i vostri messaggi, prima di lasciarci brevemente per aggiornare chi sta viaggiando, dice Luca Cara, ribadisco che Trump è un debole a qualche giorno di distanza, trovo che purtroppo è in balia di pesce cani, se la Cina chiede il conto, addio America, così prevede Luca. E poi invece su De Luca vedo altri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Per esempio dice questo ascoltatore o ascoltatrice, come al solito in Italia si dà più valore alla forma che alla sostanza, quella di De Luca è solo una metafora, quello che ha fatto la Bindi un atto gravissimo. Ma insomma, forse in quel momento era un atto dovuto, c'erano le elezioni, De Luca era indagato, poi per carità dopo è stato scagionato, però così Tonino da Civitavecchia sulla stessa linea dice sarà un fatto grave la frase detta, è da considerare il linguaggio tipico di De Luca, un'abitudine sbagliata ma rende sicuramente meno grave la sua esternazione. Questo secondo Tonino. Continuate anche con le vostre interazioni, poi tra poco cominceremo a entrare nel cuore degli argomenti. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie, quelle principali, le avete sentite, questo riassunto come sempre che vi racconto all'inizio della puntata. Adesso, dopo la prima viabilità, cominciamo quindi ad affrontare alcuni argomenti in particolare. Ci occuperemo tra pochissimo di questa condanna per Nicola Cosentino a 9 anni di carcere. Intanto voi continuate con i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Per esempio sempre questo messaggio su De Luca e sulla sua frase su Rosy Bindi che ha scatenato questa bufera. Dice De Luca mi ricorda un altro sceriffo, Gentilini, credo che entrambi abbiano visto troppi film western, dice questo ascoltatore. Gentilini è ex sindaco di Treviso, no? Sembra. Poi Luca dice Giuliani è un personaggio che tiene in pugno Trump, perché anche di questo poi parleremo, ci collegheremo ancora con gli Stati Uniti. Mentre un altro ascoltatore o ascoltatrice, mettete almeno un nome d'arte, dice Merkel al quarto mandato, ecco il suo disprezzo per la democrazia, oltre i due mandati si affermano clientele potentati. Beh, ma comunque se le leggono, mi pare che ci sia insomma un sistema democratico in Germania. Comunque ci sarà modo, ci sarà tempo. Intanto vi ricordo le notizie più importanti se non avete acceso puntualmente alle 21. Bufera su De Luca per le frasi su Rosy Bindi. Io impresentabile, fu infame da ucciderla. Il presidente del Consiglio Renzi la definisce parole inaccettabili. Camorra, l'ex sottosegretario del PDL, Nicola Cosentino, condannato a 9 anni per concorso esterno, ne parleremo tra pochissimo. Obama in Germania da Merkel, lei ha grandi valori, dice il presidente americano, e la cancelliera tedesca assicura farò di tutto per collaborare con Trump, e la presidente della Banca Centrale Americana sfida il neoeletto presidente, dice rimango la guida della Fed. Accordo sul bilancio europeo, ma per la prima volta l'Italia si astiene, Renzi avverte siamo pronti anche al veto, ma non per egoismo. Immigrazione, Medici Senza Frontiere denuncia un nuovo naufragio a largo della Libia, dove risultano dispersi un centinaio di migranti. Poi questa notizia che arriva da Firenze, vigili del fuoco e forze dell'ordine stanno intervenendo in via Villa Magna, la periferia di Firenze, per il crollo di un immobile causato forse da un'esplosione. C'è un aggiornamento che vi darò tra pochissimo. E poi terremoto, ancora crolli a Norcia, mentre il capo della protezione civile Curcio annuncia a Natale i primi container. Libertà di stampa, secondo uno studio europeo l'Italia ha record delle pressioni e delle minacce sui media. Dichiara Cosentino Nicola colpevole del delitto ascrittogli e ritenuto il fatto anteriore all'8 dicembre 2005, condanna l'imputato alla pena principale di anni 9 di reclusione, a quelle accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante la pena, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. Questa è la sentenza che condanna Nicola Cosentino a 9 anni di carcere, ma prima vi aggiorno sulla notizia che arriva da Firenze. Un uomo e sua figlia sono stati estratti vivi dalle macerie di questo immobile, una villetta crollato in via Villa Magna nel comune di Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze. Sarebbero dispersi la moglie dell'uomo e un'altra figlia, lo rendono noto i vigili del fuoco. Entrambe le persone estratte dalle macerie sono state affidate alle cure del 118. Dicevamo quindi, la condanna a 9 anni di carcere per Nicola Cosentino, ex sottosegretario del PDL, è stato riconosciuto quindi colpevole di concorso esterno in associazione camorristica, ex sottosegretario all'economia del governo Berlusconi e coordinatore campano di Forza Italia. Quindi saluto la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, a te ascoltatore. Si è concluso un processo lungo, mi pare sia durato almeno 5 anni, no? Nel corso del quale sono stati ascoltati molti testimoni e hanno parlato numerosi pentiti. Ci ricostruisci un po' la storia di Cosentino? Sì, Raffaella? Al di là del processo lungo, sì. 5 anni, 140 udienze, è una vicenda ancora più lunga, perché la vicenda ha una durata di almeno 7 anni, da quella ordinanza del 2009 che provocò un vero e proprio terremoto, perché allora potente sottosegretario all'economia del governo Berlusconi veniva accusato di fatto di essere il referente politico del clan dei Casalesi all'interno del governo. Poi ci furono varie vicende, varie volte appunto fu negato il consenso all'arresto, diciamo, di un parlamentare, appunto, di Cosentino, finché nel 2014, dopo anche il voto della Camera, appunto l'ex sottosegretario si consegnò direttamente lui a Secondigliano e quindi fu arrestato nel 2014, ha scontato un paio d'anni di carcere preventivo, ora si trova agli arresti domiciliari. Quella di Cosentino non è soltanto una vicenda lunga, ma è una vicenda che segna un po' il punto di arrivo in questo processo di un'indagine su un'intera stagione, diciamo, camorristica e anche per certi versi politica della Campania. Non a caso il procuratore di Santa Maria Capua Vetere parla oggi di un'ombra, e anzi dice è riduttivo, sulla politica campana, perché appunto quello che c'è al centro, diciamo, di questa inchiesta è l'accusa che Cosentino sia stato abbia stretto un patto con il clan dei Casalesi, in particolar modo col clan dei Bisognetti, una delle famiglie criminali dei Casalesi, per cui riceveva voti da questo elettorato della Casertano, soprattutto in cambio di appalti nel delicatissimo settore dei rifiuti, in una stagione anche in cui la Campania, e lo ricorderanno i nostri ascoltatori, era nel pieno dell'emergenza rifiuti. Tutto ruota soprattutto intorno ad un consorzio, la cosiddetta Eco 4, con cui Cosentino avrebbe gestito il suo potere nella Campania. La più celebre delle intercettazioni di questo lungo processo è quella in cui Cosentino avrebbe dice ad un emissario, diciamo ad uno che gestiva le finanze per conto del clan dei Bidognetti, la Eco 4 è una mia creatura, e poi aggiunge in dialetto campano: Eco 4 son io, cioè Eco 4 sono io, con una identificazione con quel consorzio che è stato un tassello importante anche che l'ha portato a questa condanna, che è sì pesante, 9 anni, ma che è molto più leggera della richiesta della procura, che ne voleva 16 di anni. E questo perché, come abbiamo sentito anche dalla voce del presidente della corte, viene ricostruita anche un periodo diverso, cioè per i giudici Cosentino è stato il referente del clan dei Casalesi dal 1980 al 2005, per la procura invece lo avrebbe fatto di fatto quasi fino ai nostri giorni, quindi accorciandosi il periodo e poi cadendo una serie di aggravanti e altri reati, diciamo, collegati, ecco giustificato anche la riduzione della pena, che resta significativa soprattutto anche considerando il ruolo che Cosentino aveva all'interno del governo Berlusconi e all'interno della vicenda campana di Forza Italia e del PDL, soprattutto negli anni scorsi. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Roberta. Grazie. E adesso, prima di lasciarci brevemente per questa piccola pausa, ancora i vostri messaggi. Dice Andrea da Desenzano: quello di Ricky Martin non è un matrimonio, mater madre, dov'è la madre? Quindi intende, negli Stati Uniti c'è in gran parte degli stati il matrimonio vero e proprio anche tra persone dello stesso sesso. Se ci deve essere la madre, allora vuol dire, questo ascoltatore, che solo donna e uomo, e anche due donne evidentemente, la madre è doppia, si possono sposare, non lo so, comunque lì vale la legge. E poi Luigi da Padova: cara Roberta, ma ti immagini la pira, Berlinguer, De Gasperi o Almirante usare le espressioni proferite da De Luca? Pochi statisti oggi, mala tempora currunt, si lamenta così Luigi da Padova. Direi che ci possiamo sentire tra pochissimo, voi continuate per le vostre interazioni qui Effetto Notte con la pagina Facebook di Effetto Notte, che lì per voi giorno e notte, oppure il numero per SMS e WhatsApp che è 349-238-6666. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Subito, tra pochissimo, ritorno ai titoli più importanti per ricordarvi quali sono le notizie principali, se non avete acceso puntualmente le 21, e poi ci trasferiamo subito negli Stati Uniti. Bufera su De Luca per le frasi su Rosy Bindi. Io impresentabile, fu infame da ucciderla, dice il presidente del Consiglio Renzi, le definisce parole inaccettabili. Camorra, l'ex sottosegretario del PDL Nicola Cosentino, condannato a 9 anni per concorso esterno, ne abbiamo appena parlato. Obama in Germania da Merkel, lei ha grandi valori, dice il presidente americano, e la cancelliera tedesca assicura: farò di tutto per collaborare con Trump. E poi terremoto, ancora crolli a Norcia, mentre il capo della protezione civile Curcio annuncia a Natale i primi container. Now I will admit, coming here tonight wasn't the easiest thing for me. There have been a few times this past week when all I wanted to do was just to curl up with a good book or our dogs and never leave the house again. But if there's anyone who knows how to pick yourself up and get back on your feet and get to work, it is Marion. And Hillary Clinton, l'avete sentita nella sua prima uscita pubblica dopo la sconfitta contro Donald Trump, che dice: certo, mi sono venute certi momenti voglia di non uscire più di casa, di starmene con un buon libro, con i miei cani, però dice non bisogna, in lui sono delusa, ma bisogna andare avanti perché l'America vale la pena, i nostri figli valgono la pena che si vada avanti. Allora andiamo avanti, in attesa di insediarsi ufficialmente come presidente degli Stati Uniti il prossimo 20 gennaio, Donald Trump è preso da queste consultazioni frenetiche per scegliere i componenti della sua squadra, sta incontrando vari leader, personaggi politici, tra l'altro oggi ha incontrato, forse è ancora in corso l'incontro con, vi ricordo, guardate, il notissimo ex segretario di Stato Henry Kissinger, e anche con la governatrice della South Carolina Nikki Haley, che vari media indicano come possibile ministra degli esteri, segretaria di Stato. E poi c'è stato anche questo colloquio informale col premier giapponese Abe. Ne parliamo con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore negli Stati Uniti. Caro Marco. Ciao, buona serata a voi. Attività frenetiche, dicevamo, no? Mentre Obama a Berlino, attività... che fa il suo tour di chiusura con l'Europa. Esatto, mentre Obama, diciamo, fa il suo tour un po' d'addio alla politica estera, all'Europa, Donald Trump cerca, diciamo, per quanto faticosamente, di prendere a sua volta le redini della politica estera e internazionale, col suo primo incontro, diciamo, il suo primo faccia a faccia con un leader estero, e cioè il premier giapponese Shinzo Abe. L'incontro vero e proprio deve ancora avvenire, avverrà nel giro di tra un'ora, un paio d'ore. Sarà un incontro, si sa, informale, diciamo, per così presa di conoscenza, ma soprattutto, come ammettono i suoi collaboratori di Trump, un incontro volto a rassicurare, a inviare un messaggio rassicurante che, nonostante la retorica elettorale molto combattiva di Trump, in realtà l'impegno dell'America anche sotto un'amministrazione Trump nell'area del Pacifico rimarrà, e quindi con Abe e diciamo l'agenda in discussione sarà sì di delicata, diciamo, su questioni che dividono i due paesi, come in particolare il commercio, la questione del libero scambio, ma anche riguarderà anche interessi strategici più generali, quali il rapporto con la Cina, il rapporto con la Russia in generale, la questione della sicurezza globale. Ecco, quindi un messaggio che i suoi collaboratori di Trump cercano di presentare come il primo, diciamo così, il primo messaggio rassicurante di Trump come nei panni, diciamo, di leader globale. Marco, per quanto riguarda la Russia, dopo 10 giorni dall'elezione di Donald Trump, i rapporti tra Stati Uniti e Russia sono ancora fermi a quella telefonata con Vladimir Putin, mi pare il giorno stesso, 2 giorni dopo, forse è un po' prematuro però pretendere insomma che ci sia subito una svolta, anche se Obama oggi ha raccomandato nei confronti della Russia, spero che il presidente eletto Trump manterrà un approccio costruttivo con aree di collaborazione, ma senza cedere quando Mosca devia dai valori e dalle norme internazionali, ha raccomandato Obama. Sì, Obama sta cercando, diciamo, in un certo verso di dare un po' delle lezioni o delle correzioni di tiro a Trump per evitare, diciamo, che scivoli troppo, diciamo, in questa fase ancora di transizione e di transizione, come ricordavi anche prima, un po' confusa, no? Tutti questi incontri per scegliere i suoi ministri. E quindi, diciamo, cerca di così. Se vuoi appunto correggere un po' le sue dichiarazioni in senso più prudente, in senso un po' più da presidenziale, da statista, insomma, ricordando che la posizione, diciamo, americana di politica estera nei confronti della Russia è una posizione, diciamo, complessa, una posizione che certo vuole rapporti costruttivi, ma assolutamente non vuole dare in qualche modo carta bianca alla Russia per operazioni come quelle avvenute in Siria, come quelle avvenute in Ucraina, diciamo, che hanno mostrato l'aggressività, diciamo, di Putin e la necessità da parte dell'Occidente di mettere appunto dei paletti molto chiari. Marco, poi ci sono stati 2 fatti importanti oggi: le dimissioni del direttore dell'intelligence americana, no? James Clapper ha dato le dimissioni, questo segna proprio questo momento di transizione da un presidente all'altro, e poi la presidente della Fed, la Banca Centrale Americana, Janet Yellen, che ha detto che la riforma ha sfidato Trump dicendo io resto fino alla fine del mio mandato, mi pare che sono ancora 2 anni, e poi ha detto la riforma di Wall Street deve rimanere la riforma fatta da Obama, perché dice non vorrei vedere le riforme delle banche decise dopo la crisi tornare indietro. Sì, esatto, anche qua, diciamo, sono se vuoi arrivati un po' dei messaggi che in qualche modo vogliono, diciamo così, tappare delle falle create da Trump, in qualche modo offrirgli anche un cammino, dei paletti su cui, dei punti di riferimento. Ecco, da un lato James Clapper ha presentato come dovuto le dimissioni, diciamo, tutti i membri, diciamo, gli esponenti di rango dell'amministrazione uscente devono, diciamo, presentare le loro dimissioni. Il fatto però che l'abbia presentate, diciamo, l'abbia annunciate, lui rimarrà in carica fino al 20 gennaio, cioè fino all'inaugurazione della prossima amministrazione, ma il fatto che appunto l'abbia annunciato così in anticipo vuole essere uno sprone, in realtà il messaggio è uno sprone a Trump per accelerare le nomine, per risolvere, diciamo, una confusione interna, scegliere i successori per poter proprio dare poi l'avvio alla transizione vera e propria. Chiaro. Dall'altra, Janet Yellen ha lanciato a sua volta un messaggio rassicurante, diciamo, fuori dalla retorica elettorale di Trump, che aveva minacciato cose improponibili tipo la cacciata della Yellen, ha ricordato ai mercati, tutti coloro che eventualmente non lo sapessero, che lei è lì per restare, non è il presidente non ha autorità di poterla sostituire, neanche se volesse, cosa che comunque Trump non vuole, di sostituirla, quindi lei resterà fino alla fine del suo mandato, che appunto, come ricordavi, in gennaio 2018, e poi gli ha ricordato che occorre frenare anche su qualunque rimessa in discussione delle riforme di Wall Street, ricordando il ruolo che la Dodd-Frank ha avuto nel risanare le banche americane, nel riaffermare la loro solidità, e quindi ha detto non vogliamo tornare certo all'epoca pre Dodd-Frank, all'epoca dei grandi rischi e dei grandi eccessi. Quindi possiamo discutere di tutto, ma lo spirito di queste riforme deve rimanere anche in futuro. Grazie Marco Valsani da New York. Ciao Marco, buona giornata a te. Ciao. avevo promesso quando è venuto ad Amatrice e dopo il primo terremoto dell'agosto, avevo promesso proprio questo, che non avremmo consentito che si spegnessero i riflettori. Questo ha detto il presidente del Senato Grasso, oggi era in visita nei luoghi del terremoto che ha colpito l'Italia centrale, e era a Norcia, ha detto: sono a Norcia davanti alla Basilica di San Benedetto, patrono d'Europa, un colpo al cuore, ma stanno reggendo bene, ha detto, anche se a Norcia in realtà continuano a crollare dei pezzi di edifici e anche delle chiese, purtroppo è uno dei paesi più colpiti dal terremoto. E una notizia che è arrivata oggi è che si è deciso di ampliare il cosiddetto cratere, cioè tutte le zone terremotate, aggiungendovi 69 comuni, 57 dei quali nelle Marche, quindi al momento questi comuni inclusi in questa zona del cratere sarebbero 131. Ma di Norcia parliamo col suo sindaco Nicola Alemanno. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Ha sentito Grasso, ha detto poi che la messa in sicurezza delle aree colpite procede secondo i piani, che non vi abbandoneranno. Com'è la situazione adesso da voi, sindaco? Sì, oggi abbiamo avuto la visita del presidente Grasso, che si è emozionato in modo visibile di fronte alle rovine della Basilica di San Benedetto, e insieme a lui abbiamo ragionato dei prossimi eventi che si terranno a Roma il prossimo marzo 2017, periodo in cui ricorre il 60° anniversario della firma dei trattati del Trattato di Roma per la Costituzione dell'Unione Europea, e quindi abbiamo ragionato di San Benedetto, patrono principale d'Europa, e di Brexit. Oggi l'Inghilterra è fuori dall'Unione Europea per ragioni di carattere economico e politico, perché l'Unione Europea, dal mio punto di vista, non ha radici importanti, comuni, alle quali potersi riferire, e quindi abbiamo ragionato di riportare sul tavolo della discussione dei capi dei diversi parlamenti europei nel prossimo marzo non il tema della religione, ma il tema della storia, evidentemente, di ciò che San Benedetto dal punto di vista storico ineluttabilmente rappresenta da oltre 1500 anni per l'intero continente. Quindi sindaco, siete andati anche oltre, diciamo, il tema terremoto, avete già guardato al di là, con argomenti di ampio respiro, dobbiamo, di altro tipo, sì, dobbiamo, per guardare avanti. Dobbiamo sforzarci assolutamente di spostare l'orizzonte oltre il tema della ricostruzione, perché dobbiamo necessariamente dare una prospettiva, una fiducia alle popolazioni che stanno in questo momento soffrendo, che stanno stringendo i denti con moltissima dignità, sopportando il post-sisma 24 agosto 2016, dopo due mesi questo terribile impatto con questa catastrofe, non si è trattato di un sisma ma di un vero e proprio cataclisma, il 30 di ottobre, che si è abbattuto sulla nostra città e che ha colpito in modo particolarmente duro i nostri beni culturali, che come tutti sanno hanno avuto delle deroghe per la ricostruzione e per il restauro, e che quindi non hanno retto l'impatto con la forza della natura così imponente. Sindaco, c'era il capo della protezione civile oggi, anche lui a Norcia, Curcio, che ha annunciato che entro Natale ci saranno dei container in alcune zone, in altre occorrerà attendere un po' di più. Voi al momento che cosa prevedete nell'immediato? Noi abbiamo individuato le aree per la messa in opera dei container, stiamo operando per attivare i primi progetti per la urbanizzazione di queste aree, quindi per metterle a disposizione per i primi container che arriveranno, sono certo, prima di Natale, quindi noi confidiamo di riuscire a togliere tutti i nostri concittadini le tende prima di Natale. Insomma, questa è una sfida importante, certo, dalla quale non ci sottraiamo, perché vorremmo veramente che i nostri concittadini potessero passare un Natale diverso, passare un Natale nelle tende con la neve sopra al tetto della tenda, ovviamente non è il modo migliore per poter augurare buon Natale ai nostri concittadini. Naturalmente. Sindaco Nicola Alemanno, io l'abbraccio, abbraccio i suoi concittadini, naturalmente non ci dimentichiamo di voi, ci sentiamo prima di Natale, naturalmente. Grazie. Grazie ancora. E viabilità. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, le notizie ve le ricordo tra poco in pochi secondi. Roberto Giordano sempre in vostra compagnia. Roberto da Roma scrive, tra la pagina Facebook di Effetto Notte, i vostri messaggi, il 349-238-6666, la qualità di un vero politico onesto, a proposito del sondaggio di Scuolanet SVG, la qualità di un vero politico onesto è l'empatia col suo popolo. Attualmente non vedo tali politici che vogliano, per esempio, prendere i mezzi pubblici a Roma, sfrecciano tutti in auto blu incuranti, di noi gente da carro, bestiame, così dice Roberto. Allora, le notizie ve le ricordo, dicevo velocemente, abbiamo parlato della bufera su De Luca per le frasi su Rosy Bindi, che ha detto io impresentabile, ha detto De Luca, fu infame da ucciderla allora nel 2015, il presidente del Consiglio Renzi però replica, dice, le definisce parole inaccettabili. Camorra, l'ex sottosegretario del PDL Nicola Cosentino condannato a 9 anni per concorso esterno, e poi Obama in Germania da Merkel, lei ha grandi valori, dice il presidente americano, e la cancelliera tedesca assicura farò di tutto per collaborare con Trump, e la presidente della Banca Centrale Americana Janet Yellen sfida Trump e dice rimango alla guida della Fed. Terremoto, abbiamo appena parlato col sindaco di Norcia, ancora crolli nel paese, mentre il capo della Protezione Civile Curcio annuncia a Natale i primi container. Vi do un'altra notizia che arriva adesso: Volkswagen, dopo lo scandalo il Dieselgate e quindi tutte le multe che ha dovuto pagare, sta valutando Volkswagen un piano di taglio dei costi da 3,7 miliardi di euro ogni anno fino al 2020, che potrebbe tradursi in un drastico taglio della forza lavoro fino a 30.000 dipendenti, di cui 20.000 in Germania e 10.000 in America. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati gli ascoltatori di Radio 24, da Silvia Bernardi. Oggi apriamo il dossier delle industrie culturali e creative. Cosa sono? Sono 3 milioni di imprese con 12 milioni di dipendenti. Rappresentano il 13% delle esportazioni dell'Unione Europea e una forza lavoro di 2,5 volte superiore rispetto a quella della produzione automobilistica e 5 volte superiore rispetto all'industria chimica. Ancorate ad un sistema di tradizioni dei territori, le imprese culturali e creative sono composte prevalentemente da microimprese e piccole e medie imprese. Sono difficilmente delocalizzabili, resistenti alla crisi economica più di ogni altro settore. Impiegano ragazzi tra i 15 e i 29 anni e contribuiscono all'occupazione giovanile e femminile. Hanno la capacità di innescare notevoli effetti positivi in altri settori industriali, come il turismo, il commercio al dettaglio e le tecnologie digitali. Ne parliamo con l'europarlamentare Luigi Morgano, che saluto. Nonostante la loro importanza strategica, non c'è ancora una politica europea mirata e a supporto delle imprese culturali e creative. Come mai e cosa manca? L'elemento di fondo è che mancavano sicuramente dati conoscitivi sufficienti, quelli che lei ha citato, con riferimento proprio a che cosa rappresentano oggi queste industrie culturali e creative in Europa. In secondo luogo, perché c'era un problema di ridefinizione complessiva che abbiamo superato, definendo meglio che cosa si intende oggi per industrie culturali creative e declinando, perché ovviamente c'è una complessità di compresenze che riguardano più settori, e chiaro che anche questo evidentemente che poteva creare qualche difficoltà. Faccio riferimento, un conto è l'architettura, gli archivi, le biblioteche, l'artigianato artistico, gli audiovisivi, ma anche poi il patrimonio culturale, abbiamo aggiunto il design, la moda, ovviamente solo sul versante della creatività, ma poi ci sono anche musica dal vivo, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio, le arti visive. Perché ho voluto citarla? Per dire che è una relazione complessa quella che abbiamo messo a punto e la volontà di essere estremamente concreti. Avete approvato un rapporto in cui chiedete per le imprese culturali e creative una politica a lungo termine e adeguato sostegno economico. Come? Da un lato avevamo da definire esattamente che cosa si intendeva per industrie culturali e creative, dall'altro essere particolarmente concreti. Iniziare con la creazione di uno sportello unico che evidenzi tutte le opportunità di finanziamento per questa realtà. La richiesta che tutta una serie di fondi, da quelli strutturali a quelli di Orizzonte 2020, a quelli di Europa Creativa, all'EFSI da un lato, alla COSME, vengano considerati adeguatamente per finanziare questi tipi di realtà. Quando si parla di un valore aggiunto annuale di 500 miliardi di euro, beh, insomma, non mi pare che sia una cifra di poco conto che possa essere non considerata, tenuto conto del quadro complessivo, ma del resto lei ha ricordato che queste realtà producono il 13% del PIL dell'Unione Europea. Youzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Bene, adesso ci lasciamo per aggiornarci brevemente alle 22.